Io vorrei meditare un po' con voi sulla cosa più bella di questi giorni, che è Gesù risorto, no? La contemplazione di questa verità, di questa presenza di Gesù risorto e vivo e nella nostra vita, nella nostra giornata. E in effetti i Vangeli di questi giorni di Pasqua e riprendono alcuni passi in questo periodo del Vangelo di San Giovanni, e oggi leggiamo quella presenza di Gesù camminando sulle acque, che San Giovanni racconta al capitolo sesto, dopo che ha fatto mangiare, così ha moltiplicato i pani. E allora i discepoli, lui va solo a pregare sul monte perché volevano farlo re, e poi i discepoli a un certo punto vanno verso Cafarnao, prendono la barca e vanno. Però in questo andare dall'altra parte, verso l'altra riva del mare, il mare era agitato, soffiava un forte vento. È venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca, si avviarono verso l'altra riva. Era ormai buio, Gesù non li aveva ancora raggiunti e probabilmente si erano accordati che Gesù avrebbe preso un'altra barca, mi immagino io. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura, ma egli disse loro: sono io, non abbiate paura. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Questo è un episodio del Vangelo nel quale Gesù dice parole molto simili a quelle che poi dirà ai suoi discepoli quando appare nel cenacolo, no? Sono io, non sono un fantasma, vedete che un fantasma non ha carne e ossa come ho io. E forse in questo modo Gesù li ha un po' preparati, no? a una sua presenza che è un po', ecco, imprevista. E forse anche qualche commentatore dice che certo Gesù li voleva portare poco a poco a conoscere la sua divinità. Nell'Antico Testamento ci sono dei passi in cui si parla di Dio che cammina sulle nubi del cielo, che cavalca le nubi, e allora, come per analogia, Gesù che cammina sulle acque. Oppure pensate a quando si diceva nella Genesi all'inizio, quando il Signore crea tutte le cose, che il suo spirito, no, alleggiava sulle acque. Quindi in qualche modo potesse con questi gesti fargli comprendere la sua divinità, anche se loro fanno fatica. E però comunque il Signore gli sta abituando, gli sta dicendo che lui è presente, no? Che è presente quando loro sono in difficoltà, che non pensino che lui non c'è, che non pensino che lui è lontano, che lui li ha abbandonati. E quindi quando c'è una tempesta, quindi li sta aiutando, li sta abituando anche pensate in tutti questi 2000 anni, quanti marinai hanno invocato l'aiuto di Dio, l'aiuto della Madonna, no? Durante le tempeste. Quindi ci sono proprio situazioni difficili da questo punto di vista così naturale. Oppure pensate ai problemi sul lavoro, oppure le tempeste della vita spirituale personale, oppure le tempeste, così le difficoltà per la Chiesa, no? o per il mondo. Quindi in questi casi noi siamo, cioè Gesù ci sta dicendo, io ci sono, sono presente, vi sto vicino, ecco, sono io, non abbiate paura. Io pensavo a questa, che leggendo questo Vangelo di San Giovanni, capitolo 6, poi possiamo spostarci su quello che sarà la lettura del Vangelo invece di domani, la domenica terza di Pasqua, l'anno C, e c'è un'altra delle apparizioni di Gesù invece risorto e sempre nella stessa zona, cioè vicino al mare, no? Vicino al lago, sì, lo chiama spesso il mare, no? Il Vangelo, che poi in realtà è un lago, no? Il lago di Cafarna, il mare di Tiberiade, è quel Vangelo che conosciamo bene, anche se è sempre nuovo, no? È sempre bello leggere. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. E gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora io pensavo che ci sono delle similitudini, no, col Vangelo che leggiamo oggi. Cioè Gesù, cioè i discepoli sono per conto loro, sono da soli, sono in una situazione di difficoltà. In questo caso non c'è una tempesta, ma invece c'è un lavoro infruttuoso, è un lavoro che non ha funzionato, no? Che non sta funzionando. E noi sicuramente anche qui dobbiamo pensare innanzitutto proprio al lavoro, la pesca, che i pescatori che vanno a pescare possono perfettamente sulla base di questo Vangelo chiedere al Signore prima del loro lavoro che quel lavoro sia fruttuoso, no? Che riescano a pescare bene, e così qualunque altro, ciascuno di noi pensa al proprio lavoro e possiamo pensare che Gesù guarda il nostro lavoro, no? Contempla il nostro lavoro, è attento al nostro lavoro, gli interessa molto il nostro lavoro. D'altra parte noi diciamo che il lavoro è cammino di santificazione, che il lavoro è luogo dell'incontro con Dio, addirittura ci insegna San José María, il lavoro addirittura è come uno dei punti importanti del nostro piano di vita spirituale, no? Lavoro, studio, e quindi luogo dove stare con il Signore, luogo dove ecco, avere un'intimità con Dio, e poi è luogo dove servire gli altri, dove nel quale in qualche modo manifestiamo anche, possiamo dire che Gesù è risorto, il lavoro, luogo dell'apostolato, no? E in effetti quindi possiamo pregare per il lavoro. Io lo ricordo spesso quando quando ti, insomma, quando medito questo Vangelo, quando penso a queste cose, quando medito su questi aspetti, che a me colpì quando, in quegli anni di studio a Roma, dove con Don Alvaro, oggi il beato Alvaro del Portillo, ci vedevamo con una certa frequenza, e a volte lui ci chiedeva proprio a quel gruppo di studenti, no, di teologia e con cui si riuniva a Cava Bianca, ci chiedeva di pregare per un certo suo lavoro, no? In modo particolare. E poi ci ringraziava, no? Perché aveva un po' colpiva, perché magari nella mia così, ingenuità, pensavo che per lavorare uno si mette lì e lavora, no? Che deve fare? E invece voi sapete bene che invece poi ecco che pregare per il lavoro aiuta molto quando è un lavoro un po' più difficile, quando è un lavoro. Quindi anche perché riusciamo a lavorare bene insieme, no? Si può pregare per questo, perché Dio aiuta nella nostra quotidianità, no? Noi siamo chiamati proprio da Gesù a cogliere questa sua presenza nella vita quotidiana e anche a dirla e a svelarlo ad altri, no? Questa possibilità di essere contemplativi nel lavoro di ogni giorno, nelle piccole cose del lavoro di ogni giorno, e quindi possiamo fare questa esperienza ancora una volta o spesso, no? Proprio per il lavoro, oltre evidentemente a prepararlo e a studiare, insomma, ecco, ad impegnarci perché il lavoro possa essere, insomma, fatto bene anche come preparazione, come scambio di impressioni, di idee. Però poi, oltre alla preparazione, come dire, umana, la preghiera aiuta molto. E può, anche a volte dobbiamo pregare perché il Signore dia un'ispirazione per il lavoro. Quindi, che non toglie il fatto che uno studi libri e consulti internet, non so, oppure chieda esperienza a chi è più esperto di noi, insomma, si fa un corso, un master, ma poi anche a volte ci può essere l'illuminazione dello Spirito Santo, magari su una cosa che anche noi sapevamo già, ma non ci è venuta in mente in quel momento. E fare esperienza di questo è molto bello, quindi anche ci chiediamo reciprocamente aiuto di preghiera per il lavoro, no? Questo è una cosa un elemento che ci può aiutare nella meditazione di questo Vangelo. Oltre al fatto appunto di notare ancora una volta che Gesù c'è che Gesù è presente. Con questo ormai Gesù è risorto e vivo ed è sempre presente con noi e quindi è sempre lì sulla riva. Ecco, rispetto al Vangelo che leggiamo oggi, in qualche modo possiamo anche notare che Gesù non fa qui un gesto straordinario, no? Ma perché camminare sulle acque è un po' straordinario, eh? Ma invece fa cose molto, molto normali, come secondo me sono le cose che fa da quando è risorto. Cioè, in fondo, ha semplicemente detto: gettate la rete a destra, no? Cioè, gli ha detto di gettare la rete e anche dove. È una cosa normale, no? E poi è straordinario l'efficacia, no? Perché non se l'aspettavano, ecco, a quell'ora forse, oppure tutti questi pesci, cioè la coincidenza, evidentemente c'è un'azione divina, so che sta passando questo branco di pesci, no? Questo, e allora voi buttate la rete lì, però Gesù è lì sulla riva, no? È una presenza normale. Se voi pensate anche gli altri Vangeli della Resurrezione, Gesù è presente, certo, loro dicono passa attraverso le porte, ma in realtà è che è già lì, no? È presente, no? È qui con noi, è qui al nostro fianco, eh? È qui al nostro fianco sempre. In effetti, ecco, quando il Papa Francesco Evangelii Gaudium, al punto 164, sta parlando della catechesi in cui la parte più importante secondo lui è sempre il kerigma, cioè l'annuncio essenziale, infatti del Vangelo dice proprio, lui dice sulla bocca del catechista, ma possiamo dire sulla bocca di ogni cristiano, sulla bocca di ogni apostolo, no? Torna sempre a risuonare il primo annuncio, e lui lo formula così, tra le virgolette, no? Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. Questo è... E poi dice, quando diciamo che questo annuncio è il primo, non significa che sta all'inizio e poi si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. Quindi noi pensiamo anche tra di noi, in fondo, no? E ce lo dobbiamo ricordare, perché a volte ce lo dimentichiamo, oppure quindi nei dialoghi tra di noi, o quando parliamo con i nostri amici, quando facciamo un incontro, un circolo di formazione, o penso per me una meditazione, cioè questo è l'annuncio che nel tempo pasquale noi meditiamo, cioè tu Gesù sei risorto, sei vivo, cioè mi ami, hai dato la tua vita per salvarmi e sei vivo al mio fianco ogni giorno per illuminarmi, rafforzarmi e liberarmi. In effetti in questo Vangelo si vede che Gesù c'è, no? Così, c'è nel cenacolo, c'è accanto a quei due che stanno andando verso Emmaus, cioè Gesù è presente. Quindi noi possiamo fare questo atto di fede: credo, Signore, che tu sei qui presente nella mia vita. Possiamo fare questo atto di fede in ogni momento della nostra giornata, e soprattutto quando il lavoro o le relazioni tra di noi o qualunque, ecco, impegno formativo o apostolico ci possa presentare un problema come quello o simile a quello di questi sette che stanno sulla barca e hanno lavorato tutta la notte e non hanno preso nulla. E allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. E Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. E gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci, non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. È molto bello vedere questo slancio di Pietro e questa, ecco, questo era buttarsi in acqua per arrivare prima, no? Perché certo con la barca piena di pesci faceva fatica. Quindi lui evidentemente sapeva nuotare, perché se no non andava bene. E il fatto anche che il discepolo che ama Gesù è quello che lo riconosce per primo. Questo, in tutti questi passi del Vangelo di Giovanni si vede che questo discepolo amato è quello che gli parla nell'ultima cena, è quello che appoggia il petto sul suo, il capo sul suo petto, è quello che sta sotto la croce, quello che lo chiama così, no? Noi la tradizione tende a identificarlo con lo stesso evangelista Giovanni, ma è quello che in questo caso riconosce il Signore, no? E possiamo anche pensare: ti riconosciamo Gesù presente, vivo adesso, anche se non vediamo. Beati, dici tu Gesù a Tommaso, quelli che credono senza aver visto. Anche ti riconosciamo con la fede, ma in qualche modo tu ci fai capire attraverso questo discepolo che ti ama, anche tu amavi, il discepolo che Gesù amava viene sempre prima. Vedete che anch'io mi sbaglio, cioè viene sempre prima l'amore di Dio per noi e poi dopo l'amore nostro per lui, no? È il discepolo che Gesù amava, un discepolo che amava Gesù, poi evidentemente amava Gesù questo discepolo, però la cosa che sottolinea il Vangelo è che Gesù amava in modo particolare, in modo prediligeva questo giovane, no? E allora sentirci amati da Dio ci porta ad amarlo, e quindi l'amore è la strada anche che rende la fede più viva, più fresca, no? Quindi se io ti amo Gesù è più facile che io ti veda. Quando una persona è innamorata pensa continuamente all'amato, no? E allora noi chiediamo a Gesù questo dono di essere continuamente innamorati di lui, in modo da vederlo, da percepirlo accanto a noi, e quindi poi, da un lato chiedergli aiuto per la nostra pesca, dall'altro tuffarci in mare per andarlo a raggiungere. Ma in fondo non abbiamo neanche bisogno, perché se sta accanto a noi non c'è neanche bisogno di tuffarci mai. Pietro lo fa perché in quel momento Gesù appare proprio là ed è risorto vivo col suo corpo trasfigurato, ma vero, in carne ed ossa, e quindi ha bisogno di raggiungerlo per incontrarlo, no, per vederlo. E guarda un po' come Gesù, lo sappiamo bene, ma ci aiuta molto a rivederlo, appena scesi a terra, come Gesù fa una serie di cose piccole e molto quotidiane. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. C'era già del pesce, Gesù aveva già del pesce con sé. E aveva del pane e ha acceso il fuoco, e quindi ha preso della legna per questo fuoco, e poi però vedete anche come è bello questa capacità di includere nel proprio lavoro gli altri, no? Di coinvolgere. Ecco, portate anche del pesce, non ha portato tutto il pesce necessario per la colazione, bastava solo per un tavolo, gli altri tavoli erano il vassoio vuoto, diciamo, e quindi portate anche quello che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Pensa, li hanno contati tutti, no? Quando si sistemano le cose nella dispensa si contano, no? Penso, mi immagino, so. E anche poi bisogna sì, poi mi vengono in mente quelle alcuni episodi che sono rimasti nella storia, appunto quando in alcune residenze dovevano essere così gli stessi residenti a fare la spesa, poi a volte facevano qualche errore, perché mi ricordo in un ecco, insomma, si racconta, no, a Bologna una certa fornitura di anatre, no, che sbagliarono il numero e quindi poi mangiarono anatre per mesi e mesi, perché ecco, uno zero in più, oppure non si erano accorti che quella confezione ne conteneva già molte, per cui ecco, comunque uno che si occupa di spesa o di spese conta, no? E si rende conto. Quindi loro comunque anche perché era così straordinaria che hanno voluto, ecco, contare. Poi probabilmente questo, ovviamente nel Vangelo di Giovanni tutti i particolari, il Vangelo in generale, hanno poi tantissimi significati. E vabbè, e quindi però noi ci fermiamo anche all'aspetto proprio umano di lavoro, e, no? E oggi i pescatori, se pescano un pesce molto grosso, si vanno a fare la foto perché sono orgogliosi di questo risultato, e così loro, è così miracolosa, così che hanno voluto vedere quanti erano. Benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Anche questa è una un'azione di Dio che li aiuta, di Gesù che li aiuta. E Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. E Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro. Erano colpiti da quella presenza, erano intontiti anche dalla notte di lavoro. E il Signore quindi gli addirittura non solo cucina il pesce e, non so, abbrustolisce il pane, forse, comunque addirittura gli serve, gli serve. Cioè, e così, ecco, voi sapete bene che, c'è un passo di un librettino di un amico teologo che parla di Gesù cuoco, e quindi si sofferma proprio su questo passo, perché secondo lui è molto significativo e unico dal punto di vista di Gesù che cucina, perché ci sono altre pesche miracolose, altri pani moltiplicati, c'è l'ultima cena che è l'Eucaristia, però è l'unico passo in cui Gesù cucina, e questo è molto significativo anche dal punto di vista del valore di questo tipo di lavoro, no? E lui dice a un certo punto quel gesto, sì, appunto, è più importante, non è solo simbolico dell'Eucaristia, ma è proprio molto bello che Gesù non si accontenta di alimentare, di nutrire e nemmeno di ricevere il cibo, ma cucina, trasforma con quanto questo umanissimo gesto richiede in attenzione a cose e persone. E quindi si immagina, cerca di capire se come avrà cucinato il pesce, pensando a Pietro e ai suoi compagni e alle loro esigenze o preferenze, un po' crudo per non perdere il sapore dell'acqua di lago, oppure arrostito a puntino, così da arricchirne l'aroma col profumo resinoso della legna arsa, non sappiamo. Però se ha cucinato, ha intuito non solo le proprietà nutrizionali di pane e pesce, ma ne ha pure esaltato le potenzialità di piacere e compiacere, e così via. Quindi la normalità di Gesù risorto, la normalità delle cose che fa, è molto bello, perché così nella normalità della nostra vita di ogni giorno noi possiamo sentirlo vicino, e poi sentendolo vicino crediamo, come per esempio il Papa alla fine della Evangelii Gaudium dice, parlando della sua azione misteriosa del risorto e del suo spirito, che la risurrezione è, non è una cosa del passato, ma ha una forza di vita che ha penetrato il mondo e che continua a dare, ecco, fa nuove tutte le cose, supera ogni difficoltà, e quindi ci permette di riprendere sempre senza mai stancarci, no? E il Vangelo ci racconta che quando i primi discepoli partirono per predicare, il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola. Questo accade anche oggi, siamo invitati a scoprirlo, a viverlo. Cristo risorto e glorioso è la sorgente profonda della nostra speranza e non ci mancherà il suo aiuto per compiere la missione che egli ci affida. Quindi Gesù risorto lo troviamo insieme a noi che lavora nella pesca, che lavora nella cucina, che lavora, che serve i commensali, e allo stesso tempo quindi rafforza la nostra missione apostolica, ci permette di fare quello che ci chiede, no? Ci chiede: andate anche voi a dire a tutti, no, che io sono risorto, che sono vivo e che li attendo in Galilea.